English Bit di Giulia Crivelli. Scholar. Beyoncé and Lemonade are giving these feminist scholars so much to debate. È il titolo di un articolo del Washington Post che potremmo tradurre con Beyoncé e Lemonade stanno dando a queste studiose di femminismo molti spunti di discussione. Il nuovo disco della cantante afroamericana, come forse molti sanno, contiene quelle che secondo alcuni sono le cronache della sua vita familiare e in particolare dei tradimenti da parte del marito Jay-Z. La parola che ci interessa è scholars, un false friend, perché non significa scolari, bensì studiosi accademici. He was the most distinguished scholar in his field. Era l'accademico più rispettato del suo campo. Notiamo come viene costruito il superlativo assoluto quando l'aggettivo è molto lungo. Nel caso di tall diremmo tallest, il più alto, ma con distinguished, proprio per la sua lunghezza, non possiamo dire distinguished, bensì most distinguished. Stessa cosa per beautiful, il più bello, la più bella sarà the most beautiful. Tornando a scholar, importante il sostantivo scholarship, che significa borsa di studio. Il suffisso ship serve spesso in inglese a creare sostantivi da altri sostantivi. Da friend, amico, nasce friendship, amicizia. Da owner, proprietario, viene ownership, proprietà. Da citizen, cittadino, abbiamo citizenship, cittadinanza. E torniamo a Beyoncé. Nel primo singolo estratto da Lemonade Formation c'è un linguaggio un po' volgare, a tratti scurrile, sul quale quindi preferiamo non soffermarci. Scegliamo un'altra canzone, If I Were a Boy, che riguarda comunque la visione delle differenze di comportamento di uomini e donne e i loro rapporti. If I were a boy, even just for a day, I'd roll out of bed in the morning and throw on what I wanted and then go. Drink beer with the guys, chase after girls, I'd kick with who I wanted and I'd never get confronted, 'cause they'd stick up for me. Se io fossi un ragazzo, anche solo per un giorno, rotolerei fuori dal letto al mattino e mi butterei addosso quello che voglio, poi andrei a bere una birra con gli amici e a corteggiare le ragazze, ci proverei con chi voglio e non sarei mai costretto a litigare per questo, perché gli altri mi difenderebbero. To stick up for me vuol dire appunto difendere la posizione di qualcuno.